140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Musica, radio, TV. 10 anni di carriera e successi per i Finlay, che ora ripropongono il mondo di Jimmy Fontana per un'ottima causa. Ladies and gentlemen! E qui negli studi di Radio 24 i grandissimi, straordinari, irrepressibili Finlay. Lui è Pedro, quello scemo, ha fatto una presentazione... come gli si confà. E lui invece è Ka, chitarrista della band, quello che fa finta di essere serio. Sì, okay, esatto. Ok, perfetto. Quello con lo sguardo languido, quello con la barba, quello che le conquista tutte. Dai, che tanto in radio non si vede, dai. Tanti anni che ci vediamo, perché i Finlay sono nati nel 2000? 2006. Quindi... non si direbbe, ma sono 10 anni che sono ci avete fra i piedi. Sì. Sono 10 anni che arrivò un signore che si chiamava Claudio Cecchetto, che venne in radio con un disco e mi disse: senti questi che sono bravi. È stato un grandissimo inizio. Beh, è anche una procedura che negli anni si è persa. Diciamo che la figura del talent scout è completamente sparita. Ci sono ancora, ma fanno un lavoro totalmente diverso di visione del web e hanno un prodotto praticamente già costruito e confezionato, perché puntano sul sicuro, vedono già se un cantante o comunque un artista che performa magari nella sua cameretta o in uno studio ha già un numero di views veramente importante, un bacino di utenza già sicuro per cui partire con un progetto discografico. Diciamo che quel fiuto da cane da tartufo non esiste più. Voi in questi anni, visto che avete cominciato con Tutto è Possibile, tutto è stato possibile, fate la radio, avete fatto anche un po' di TV, non sì, mi sbaglio, sì, no? Sì, sì. È incredibile che facciamo la radio. No, è incredibile che, appunto, a conferma di questo slogan che, volendo, in quel momento era quasi un ideale per noi, il tutto è possibile, che sogni e poi si avvera, ecco, se ce l'abbiamo fatta noi, secondo me ce la può fare abbastanza chiunque, nel senso che ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo buttati in qualunque situazione. È bello buttarsi in esperienze nuove, quindi non ci precludiamo nulla, nel senso. Però vabbè, la musica non ce la siamo dimenticata, nel senso che comunque lavoriamo costantemente, sono 3 anni che scriviamo, siamo in studio, stiamo producendo roba nuova. Diciamo il punto focale di questo nostro percorso attuale musicale è proprio il fatto di trovare una nuova strada. Noi tornare e fare ancora, diciamo, i ragazzini di una volta sembrava un po' anacronistico. Il sound è cambiato, la musica internazionale ha virato totalmente, ci sono stati nuovi artisti che sono arrivati, si sono imposti, vedi Coldplay che hanno imposto un trend a livello proprio di sonoro, i Black Eyed Peas, ci sono state tantissime band che sono arrivate e hanno stravolto le regole della musica, quindi l'impegno più grande è quello proprio di trovare un nuovo vestito per noi e ci stiamo riuscendo. Posso aggiungere una cosa, questi anni di silenzio, che mi piace definire silenzio pieno, nel senso che... magari non abbiamo fatto delle pubblicazioni a livello musicale, a parte quella di pochi mesi fa, con il mondo, hashtag gira il mondo gira, e però abbiamo continuato a scrivere e crescere piano piano con le canzoni che venivano prodotte nei nostri studi. Gira il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore. Come me il mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno ed il giorno verrà. Gira il mondo gira nello spazio. Hashtag gira il mondo gira, voglio sapere tutto di questa iniziativa e di questo disco. È un qualcosa di, forse una delle cose più ambiziose che abbiamo fatto nella nostra carriera in questi 10 anni. Come diceva Ka, nelle nostre canzoni abbiamo sempre portato avanti energia, abbiamo messo disimpegno, abbiamo messo positività, ottimismo, ma mai superficialità. Avevamo conosciuto questi ragazzi di Cesvi già diversi anni fa, ma concretamente con loro non avevamo fatto niente se non farci qualche bella chiacchierata di fronte a una birra. E ci siamo rivisti qualche mese fa, abbiamo parlato dei progetti che tutte e due stavamo portando avanti e abbiamo detto: perché non fare qualcosa insieme? Da lì l'idea di pubblicare una canzone a sostegno di questa campagna che si chiama Food Right Now, che è questa campagna che difende i diritti all'alimentazione, comunque al cibo, di tutta la popolazione umana. E abbiamo scelto una canzone che potesse subito centrare in pieno quello che è il messaggio di CESVI, che è quello di Mondo come Casa Comune, e cercare comunque una canzone che fosse già nelle orecchie e nel cuore degli italiani, perché questa volta non c'era solamente uno scopo discografico, c'era un qualcosa di più: portare alla sensibilizzazione di questa campagna e portare alle orecchie e al cuore di tutti anche questa bella causa di CESVI. Abbiamo fatto un video, tra l'altro girato a Londra con il bravissimo Gabriele Paoli, e vorrei parlare per la prima volta in un'intervista di questa cosa che è successa incredibile, perché tra i vari spostamenti cittadini durante le riprese abbiamo incrociato questo attore famosissimo inglese che si chiama Bill Nighy. Lui è stato protagonista di un film che si chiama, se non sbaglio, About Time, in cui lui interpreta il ruolo di questo padre, questa vita molto particolare, un rapporto molto difficile con il figlio. Fatto sta che il suo brano preferito in quel film era Il Mondo, cioè doveva essere destino che comunque noi fossimo qui quest'oggi, cioè a girare le riprese di un brano italiano a Londra e incrociamo uno dei più grandi attori inglesi degli ultimi anni che ha avuto comunque un rapporto particolare con questa canzone. Pensate ancora che tutto sia possibile? Chiaramente, non smetteremo mai. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Finley. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. 140 caratteri va in vacanza, ma le interviste tornano ogni giorno con Voci in Scena da lunedì al venerdì alle 6:15 e 13:30. Ancora un saluto da Marta Cagnola.